Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. La Fiat salvata dallo Stato, il commento di Fini dopo l'intervista in TV di Marchionne. Strage dell'ambulanza in Iraq, Wikileaks smentisce i militari italiani. Si deministe europea all'adesione della Serbia, ma solo se collaborerà con il Tribunale Penale dell'Aia sull'arresto dei criminali di guerra. La vita di un operaio albanese vale 10 volte meno di quella di un operaio italiano, lo ha stabilito un giudice di Torino. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, poco fa parlarne il presidente della Camera Fini. Sì, buongiorno. Dal governo all'opposizione, sindacati, tante le reazioni alle parole dell'amministratore delegato della Fiat, secondo il quale senza l'Italia Lingotto andrebbe meglio. Di poco fa quella velenosa del presidente della Camera, Marchionne ha dimostrato di essere più canadese che italiano, ha detto Fini, visto che è italo-canadese, e ha aggiunto, sono frasi paradossali, perché se la Fiat è ancora un grande colosso è stato grazie al contribuente italiano. Dal governo invece la risposta del ministro del lavoro Sacconi, che a Marchionne ha ricordato che è l'Italia il paese madre della Fiat, è puntualizzato che la maggioranza del sindacato e istituzioni si sono già rese concretamente disponibili al cambiamento. Più polemico il ministro per la semplificazione Calderoli, sarebbe tutto giusto, dice, se non fosse per i corposi aiuti di Stato ricevuti negli anni dalla Fiat, mentre con il numero uno del Lingotto si schiera Bondi, secondo il quale polemizzare con la DIA è negare i problemi. Quanto ai sindacati, il più duro la CGIL, che con i Epifani taglia corto, non si possono scaricare le responsabilità sugli operai, mentre per Cremaschi della Fiom e da Marchionne arrivano solo falsità e bassette. Reagisce anche l'opposizione, sono parole ingenerose, dice il PD, che chiede chiarezza alla Fiat. Ed è roba per ora è tutta, con la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, andiamo all'estero. Da Wikileaks una nuova verità sulla strage dell'ambulanza in Iraq. Questa volta Wikileaks diffonde notizie relative all'Italia. Il famoso sito che pubblica documenti coperti da segreto fornisce una versione diversa sulla cosiddetta battaglia dei lagunari, avvenuta fra il 5 e il 6 agosto del 2004 sui ponti di Nassiriya in Iraq. I militari italiani hanno sempre sostenuto che un furgone privo di insegne o di dispositivi luminosi non si era fermato al checkpoint. Uomini armati erano scesi e avevano sparato contro i soldati italiani, che avevano risposto al fuoco facendo saltare in aria il mezzo. Per questo si era concluso che il furgone fosse carico di esplosivo. Ora invece, secondo la versione di Wikileaks, gli occupanti del mezzo, un'ambulanza, non hanno mai sparato. A bordo, secondo testimoni, c'erano una donna incinta, la madre, la sorella e il marito. La verità di Wikileaks coincide sostanzialmente con quanto appurato dall'inchiesta giudiziaria, ma stride con i rapporti dei militari. Il sito inoltre fa sapere che il militare italiano Salvatore Marracino, morto nel corso di un'esercitazione il 15 marzo del 2005, sempre in Iraq, è stato colpito accidentalmente. All'epoca invece si disse che si era sparato alla fronte con la sua stessa arma, tentando di disincepparla. Non fu dunque suicidio, per quanto accidentale, ma fuoco amico. Alessandra Tedesco, Radio 24, il Sole 24 Ore. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno sbloccato la domanda di adesione della Serbia, che potrà ora passare all'esame della Commissione Europea. L'accordo fra i 27 accoglie la richiesta olandese, secondo la quale ogni passo in avanti nel processo di negoziato con la Serbia dipenderà da quanto Belgrado collaborerà con il Tribunale internazionale dell'AIA per arrivare all'arresto di tutti i criminali di guerra. Si aggirano fra i 200 e 400 milioni di euro al giorno i costi degli scioperi contro la riforma delle pensioni che vanno avanti da tempo in Francia. La stima arriva dal ministro francese dell'economia Christine Lagarde. Evidente, ha detto la Lagarde, che il settore chimico in particolare, che ha un bisogno importante di rifornimento di prodotti petroliferi, soffra. Ma la Lagarde ha precisato anche di un danno morale per la Francia, per l'immagine all'estero incrinata dagli incidenti durante le manifestazioni. Attesa dei lavoratori che occupano l'Asinara da 240 giorni per l'apertura delle buste con offerte per l'acquisto della Vinils. Sentiamo da uno di loro, Pietro Marongiu, con che animo attendono gli sviluppi della giornata. Sempre di speranza, perché siamo consapevoli di essere un'azienda, o comunque di far parte di un'azienda forte, perché quello eravamo, e poi siamo consapevoli della nostra professionalità. Quindi noi speriamo che siano aziende serie quelle che manifesteranno l'interesse all'acquisto, siano munite di un piano industriale che sia duraturo nel tempo, che tolgano l'incertezza. Quindi la speranza è che chi veramente è interessato sia interessato a un programma a lunga scadenza, sia interessato a tutta Vinyls, perché tutti i lavoratori hanno pari dignità e devono lavorare di tutti gli impianti. Sono contrario a un'eventuale possibilità che un solo lavoratore di Vinyls rimanga nella condizione di cassa integrazione col rischio di licenziamento qualora non gli venisse rinnovata. Ed ora l'emergenza rifiuti nel napoletano. Stamattina le parole molto dure del ministro Maroni in diretta da Napoli, Laura Viggiano. Sì, buongiorno. Questa mattina è iniziato il piano annunciato ieri da Bertolaso e dunque è chiusa la discarica di Terzigno. E l'effetto già si sente, è arrivato un carico di circa 400 tonnellate di terreno vegetale a bordo di 15 camion, l'aria è già diventata migliore, il mare odore è lenito. Nelle prossime ore saranno effettuate nella cava Sari anche prelievi per i campionamenti di acqua, terra e aria. Tutto questo dopo una notte, la prima trascorsa quasi in tranquillità. Solo un episodio violento si è registrato ai danni di due macchine della polizia in Borghese. Un poliziotto è rimasto ferito a un occhio. È accaduto in una strada di Bosco Reale, in pratica un gruppo di ragazzi in motorino e munizioni di spranga ha attaccato le due macchine, tre di loro sono stati arrestati. Sul fronte della raccolta procede l'attività straordinaria e in alcune zone di Napoli grandi cumuli sono stati già rimossi. È tutto linea d'ospizio. Grazie a Laura Vigiano. E poi ci sono le parole appunto del ministro Maroni: a Terzigno ci sono stati atti di vera e propria violenza nei confronti delle forze dell'ordine, questo non è più accettabile, ha parlato così il ministro dell'Interno Maroni, che ha invitato tutti a deporre le armi, altrimenti, ha detto, credo che sarà necessario intervenire in modo più duro di quanto non si sia fatto finora. Ci spostiamo da Napoli a Bologna perché finisce qui la corsa sindaco del PD Cevenini. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, si riapre la corsa nel centro-sinistra per la guida del comune di Bologna. Maurizio Cevenini si ritira infatti dalle primarie, lo ha annunciato lo stesso esponente politico in una conferenza stampa nella clinica dove è ricoverato da lunedì scorso per un attacco ischemico. Cevenini ha spiegato: ho scelto di ritirarmi perché lo shock che ho avuto dopo questo malore è stato forte, è immenso il dolore che provoca, ha aggiunto, rinunciare al sogno della mia vita. Di fatto il Partito Democratico di Bologna resta così senza candidato. Cevenini era infatti il favorito delle primarie dal momento che gli altri due nomi in corsa sono esterni al PD e di profilo minore. Sulla scelta di Cevenini pesano i consigli del medico curante e della famiglia. Evidentemente affrontare una campagna elettorale, tutto ciò che ne consegue, avrebbe potuto mettere di nuovo in pericolo la vita stessa dell'ex candidato. Ma cosa succederà ora sul fronte del centrosinistra bolognese? L'ipotesi considerata più probabile a questo punto è il rinvio delle primarie per dare modo ai democratici di mettere in campo un'alternativa. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Di cosa abbiamo bisogno che la foresta non può fornirci? Abbiamo cibo, legna per le armi. Troveremo riparo e conforto tra i suoi alberi. Povero Robin Hood, tra un po' riparo e conforto dovrà cercarli fra altri alberi, perché quelli della foresta di Sherwood, regno del principe che rubava i ricchi per donare ai poveri, potrebbero non esserci più, rimpiazzati da alberghi, parchi avventure e campi da golf. Secondo il Sunday Telegraph, il Ministero dell'Ambiente della Gran Bretagna avrebbe intenzione di vendere ai privati una parte del patrimonio forestale inglese, 750.000 ettari di terre e boschi antichi, e nella lista ci sarebbe appunto anche la foresta di Sherwood. Dopo l'occupazione della Casa del Cinema venerdì e sabato, oggi alle 18.30 l'associazione 100 autori ha convocato un incontro fra i rappresentanti del cinema italiano al Teatro Eliseo di Roma. Durante l'assemblea saranno fra l'altro decise le azioni di protesta contro i tagli al settore da portare avanti durante il Festival del Cinema di Roma, che comincerà giovedì. Alice Cason ha intervistato Stefano Rulli, presidente di 100 autori. Noi vorremmo sottolineare questo elemento drammatico sul piano proprio sociale, perché riguarda veramente centinaia di migliaia di famiglie, insomma, in Italia. Un governo di fronte a una mobilitazione di questo genere praticamente tace, fa pensare sulla sua capacità davvero del fare, no? Mi pare che sia un governo che credo sa solo tagliare, almeno nel nostro settore. Proprio per sganciarci e far capire che noi non siamo dei parassiti e vogliamo chiedere sempre più soldi allo Stato, noi diciamo che ci facciano una legge per cui chi utilizza il cinema paghi. Ci continua a usare questa palazzi ridicolo, perché il cinema è in crisi, calcolando solo la sala, ma la sala cinematografica ormai è il 10% degli introiti che vengono fatti sul contenuto, sul film, insomma, su un singolo film. E allora noi chiediamo questo, di sostenere, di alimentare il cinema italiano, di dare questo danaro a un centro nazionale di cinematografia sganciato dal controllo della politica, e questi soprattutto attraverso il finanziamento di questo prelievo di scopo da parte di chi utilizza il cinema. Le donne italiane che lavorano sono pagate in media all'ora il 7% in meno degli uomini a parità di qualifica, è quanto emerge da uno studio dell'ISFOL, nel quale si ricorda che il differenziale cresce molto di più se si considera l'insieme delle retribuzioni, poiché gli uomini stanno in media molte più ore in ufficio e quindi percepiscono stipendi più robusti, non solo per il vantaggio di genere, ma anche per la lunghezza dell'orario. Dopo l'anagrafe per i cani arriva anche quella per i gatti. Io e il mio gatto siamo due randaggi senza nome che non appartengono a nessuno e a cui nessuno appartiene. Ecco qual è la verità. Forse esiste una soluzione alle paturnie di Holly Golightly. Forse esiste almeno per il suo gatto senza nome. Da pochi giorni è nata la prima anagrafe dei gatti, proprio nell'anno del sorpasso. I felini avrebbero superato i cani tra gli animali domestici. I padroni potranno andare dal veterinario per dotare il gatto di un microchip, rendendolo rintracciabile ovunque. Tutti i dati del microchip saranno inseriti in una banca dati informatizzata. Nella prima settimana sono già 800 le strutture che hanno aderito al progetto. Marco Melosi, presidente dell'Associazione Nazionale dei Medici Veterinari Italiani. Attraverso questo progetto è possibile in primis agevolare il riconoscimento del gatto in caso di smarrimento. Inoltre si promuove anche il possesso responsabile del gatto. Questo quindi contrasta l'abbandono e in qualche modo previene anche il randagismo. Ambra Notari, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato delle dichiarazioni di Marchionne ieri sera in TV. La Fiat è salvata dallo Stato, ha commentato questa mattina il presidente della Camera Fini. Marchionne aveva detto: senza l'Italia la Fiat farebbe meglio. Strage dell'ambulanza in Iraq, Wikileaks smentisce militari italiani. Dopo le occupazioni tornano a protestare questa sera attori, registi e tecnici del cinema italiano contro i tagli al settore. Ed è destinata a far discutere la sentenza del Tribunale di Torino, che assegna un risarcimento 10 volte inferiore alla norma ai familiari di un operaio albanese morto sul lavoro in Spagna alle dipendenze di un'azienda italiana. La somma, 32.000 euro per ciascun genitore, è molto più bassa rispetto alle tabelle in uso per le vittime italiane, perché i genitori vivono in Albania, area ad economia depressa, si legge nella sentenza. Mi sono attenuta ad una linea giurisprudenziale corrente, ho applicato le leggi di diritto internazionale privato, ha commentato il giudice. Non è così, dice l'avvocato Alessandro Gracis, esperto di diritto civile. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Mentre la dottoressa ha citato una sentenza della Cassazione del 2000, si è dimenticata che successivamente c'è stata una grande evoluzione giurisprudenziale, arrivando a pronunce esattamente opposte a quell'unica pronuncia del 2000. Quella tesi non è la tesi predominante, è una tesi per fortuna minoritaria. La liquidazione dei danni non patrimoniali da morte non deve essere un budget che il giudice mette nelle mani dei superstiti perché spendendolo possano stare più contenti. Quindi se lo devono spendere in Albania gliene danno meno, perché sennò chissà che felicità raggiungono, visto che il potere di acquisto dell'euro in Albania è molto maggiore rispetto che in Italia. Ma questa è un'impostazione sbagliata, perché ciò che deve dare lo Stato in questi casi non è un budget da spendere per rendere più contente le persone o meno infelici, deve erogare quello che è il valore per lo Stato della vita di una persona. Quei 30.000 euro liquidati alla mamma dell'albanese corrispondono alla coscienza sociale degli italiani. Tutti direbbero che è una barbarie. Quando mancano solamente 8 giorni alle elezioni americane di midterm, democratici e repubblicani pronosticano esiti favorevoli per i rispettivi schieramenti, concordando solo sul fatto che il partito dell'elefante incrementerà i propri consensi. In campo è sceso anche Barack Obama, il cui carisma sembra però un po' appannato. Ma quali sono stati gli errori di Obama in questi primi 2 anni dall'elezione a presidente? Sergio Nava lo ha chiesto a Cesare De Carlo, giornalista e autore del libro Un tè freddo per Obama. Avere raddoppiato in 18 mesi il debito pubblico, oggi attorno al 90% del PIL, avere più che raddoppiato il deficit di bilancio, che oggi è attorno al 10% del PIL, avere speso o intendere spendere $1 trilione, $1 trilione sono 1.000 miliardi di lire, in stimoli all'occupazione che hanno creato pochissimi posti di lavoro e certamente non i 3,5 milioni di posti di lavoro promessi in campagna elettorale. Una riforma sanitaria che costerà $1 trilione, cioè dire altri 1.000 miliardi di lire, e che comunque lascia scoperti 22 milioni di americani. Aumenta e non diminuisce le tariffe delle polizze assicurative, che comunque rimarranno private. E altra colpa, avere appoggiato una riforma, avere fatto varare una riforma finanziaria di facciata, che in realtà sembra una presa in giro, perché nella riforma finanziaria non sono inclusi i due giganti immobiliari che 2 anni fa, nel 2008, furono all'origine del collasso finanziario della borsa e dei salvataggi. Mi riferisco alle istituzioni parastatali Fannie Mae e Freddie Mac, sono le agenzie, ripeto, parastatali che garantivano i mutui subprimes, i mutui a rischio concessi dalle banche americane con troppa disinvoltura. Tutto questo è avvenuto in appena 18 mesi e tutto questo aiuta a spiegare la grande scontentezza che l'elettorato americano ha nei confronti di Obama. Botta risposta a Israele Santa Sede in merito alle critiche allo Stato ebraico emerse dal Sinodo Vaticano sul Medio Oriente. Dopo la dura presa di posizione ieri del governo di Gerusalemme, che ha parlato di attacchi politici frutto della propaganda araba, poco fa la Santa Sede ha ribadito la valutazione grandemente positiva dei lavori del Sinodo, la cui voce collettiva, ha spiegato il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, è sintetizzata nel messaggio finale e non nei singoli interventi dei padri sinodali. Chi può godere dell'esenzione dell'IRAP? Se ne parla oggi sul Sole 24 Ore del lunedì. Autonoma organizzazione. È la formula magica che può fare o meno la differenza. Elettricisti, piccoli agricoltori, tassisti. Quando ne sono privi, allora non devono pagare l'IRAP. E se l'hanno già pagata, possono chiedere un rimborso al fisco. Secondo la strada tracciata dalle sentenze della Cassazione, che continuano a riconoscere nuovi profili di contribuenti esenti. Dietro la formula magica, però, si nascondono valutazioni non sempre semplici. Ho dei dipendenti? Quanti mezzi utilizzo? E che tipo di responsabilità ho nella gestione della mia attività? Domande che riguardano anche avvocati, commercialisti e tutti gli altri professionisti che hanno uno studio. Domande a cui cerca di dare una risposta la guida pratica, le esenzioni dall'IRAP, in edicola oggi, con il nuovo Sole 24 Ore del lunedì. E chi avesse ulteriori dubbi può inviare un quesito fino alle 18 di oggi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/IRAP. Le prime risposte degli esperti saranno pubblicate poi sul quotidiano di domani e da mercoledì saranno tutte disponibili sul sito del Sole 24 Ore. Giovanni Parente, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo alla cronaca, pioggia e freddo sull'Italia, allagamenti tanto per cambiare anche in Liguria, in particolare in provincia di Savona e Imperia, e sopra i 1.000 metri è comparsa la neve. E da sabato infatti si scia sulle piste del Tonale in provincia di Brescia, a merito della leggera nevicata della scorsa settimana e delle coperte geotermiche che hanno protetto il ghiacciaio del Presena dal caldo dell'estate. Alberto Trenti è responsabile del progetto di copertura che quest'anno ha permesso di salvare, pensate, 130.000 metri cubi di neve, una superficie grande come 20 stadi di calcio, e di anticipare la stagione sciistica. Le coperte che vengono posate sul ghiacciaio di Presena sono in realtà un tessuto geotessile noto in commercio anche come tessuto non tessuto e che trova impiego nell'edilizia e nelle attività geologiche. Questi teli sono bianchi, hanno uno spessore di 4 mm e vengono stesi all'inizio dell'estate su buona parte del ghiacciaio. Abbiamo coperto complessivamente una superficie di circa 90.000 metri quadrati. Il loro ruolo è quello di ostacolare la penetrazione della radiazione solare sulla neve che si è accumulata durante l'inverno e la primavera. Il risultato è che nei 2 mesi estivi, nella zona dove viene posto il telo, si conserva da 1 a 2 metri di spessore di neve in più rispetto alle aree naturali subito fuori dai teli. Mi sembra assolutamente improbabile estendere su vasta area questo tipo di operazione, primo perché è costosa sotto il profilo economico e anche impegnativa dal punto di vista logistico. Credo che l'unica salvezza per i ghiacciai possa venire dalla natura e sulla capacità che avrà l'uomo di assecondarla e di non turbarla eccessivamente. Altre tecniche le ritengo assolutamente improbabili. E siamo al calcio dopo le partite della domenica. Stasera il posticipo fra Napoli e Milan. Dimenticare l'Europa. Napoli e Milan si presentano al San Paolo con questa parola d'ordine. Provare a mettere da parte le amarezze di Coppa per continuare invece con passo spedito la marcia in campionato. Allegri, forte della fiducia ribaditagli dallo stesso Berlusconi, prova a minimizzare le sberle rimediate in Champions a Madrid. Credo che Madrid sia un caso isolato, anche perché finora la squadra ha lavorato molto bene e a Madrid è stata una partita strana. Intanto però stasera formazione rimaneggiata a causa le assenze di Ronaldinho, Ambrosini, Zambrotta, Thiago Silva e Abate. Sarà quindi la serata di Robinho e Boateng. I partenopei vogliono invece voltar pagina dopo lo scialbo 0-0 con Liverpool, per di più macchiato dai tafferugli tra tifosi azzurri e inglesi. Mazzarri scommette sulla voglia di rivincita dei suoi. Diamo sempre il massimo, siamo sicuri che ogni partita daremo tutto, come abbiamo sempre fatto, compreso con Liverpool. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Sì. Iniziano oggi a New York i festeggiamenti per i 25 anni del film Ritorno al Futuro. Questa sera si riuniscono negli studios della Universal il cast e i produttori della trilogia, che uscirà per la prima volta in Blu-ray. Il film torna anche eccezionalmente al cinema in Italia. Dopodomani, il 27, doveva essere un unicum, ma viste le richieste si stanno aggiungendo giorno per giorno altre date. E da oggi addio vecchia TV in Lombardia, Piemonte orientale e parte dell'Emilia. Per mia suocera sto tutti i giorni sto andando a risintonizzare i canali. Ancora vedo tipo puzzle, tutto a quadrettini. Troppe cose complicate, compra il decoder, sintonizza il decoder. Ve lo ricordate? Era il novembre dell'anno scorso e Roma scopriva lo switch off, ovvero il passaggio dalla vecchia TV analogica a quella digitale. Furono proteste e giorni di smarrimento. Eppure altri c'erano già passati. I primi erano stati 2 anni fa, il 15 ottobre 2008, i sardi, poi altri li avevano seguiti. Perché a Torino hanno messo il digitale terrestre? E allora? Perché? Ci fuma la mole. Adesso e non riesce a sintonizzare i canali e ti vanno in palla tutti quanti, viene tutto nevischio. Da oggi si ricomincia, al via un'altra infornata di switch off per Lombardia, Piemonte orientale e parte dell'Emilia. Nel frattempo che è successo? Romani, torinesi, campani, sardi si sono arresi. Ad agosto quasi metà della popolazione italiana usava un decoder per guardare la TV. Ma il passaggio al digitale ha offerto anche l'occasione a molte famiglie di cambiare il vecchio televisore. Solo nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo buttato 19.500 tonnellate di TV, 207.000 pezzi solo in Lombardia. Un po' un addio, insomma, ad un vecchio mondo. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.